Buongiorno. La rivista di cui parliamo oggi si chiama Alphaville. Alphaville come la città del futuro che abbiamo visto in un film di Godard. Con Alphaville, questo è anche il titolo del film che è uscito nel 65, Godard rivisita a modo suo i grandi filoni della letteratura popolare. La fantascienza innanzitutto e poi il fumetto. C'è per esempio un agente segreto che si chiama Dick Tracy. Gioca, insomma, con l'allora nascente cultura di massa, come negli stessi anni facevano gli artisti della pop art. Alphaville è dunque un titolo programmatico che delimita perfettamente l'area in cui si muovono gli ideatori della rivista, Daniele Brolli e Antonio Caronia. L'area è quella della letteratura di genere. Che cos'è la letteratura di genere? Con una battuta, che come tutte le battute è un fondo di verità, la letteratura di genere sono quei libri che per molti anni abbiamo letto di nascosto, vergognandoci anche un po' di queste nostre passioni segrete. La letteratura di genere è la fantascienza, sono i gialli, sono i romanzi di spionaggio, o i romanzi dell'orrore, oppure i fumetti. Sono quei libri che raramente hanno l'onore delle pagine letterarie, ma che leggiamo avidamente, perché questi libri ci dicono qualcosa di noi. Ma non perché, come qualcuno ancora crede, fanno leva sui nostri istinti peggiori o sulla nostra inguaribile voglia di evasione. Al contrario, come possiamo leggere proprio in questo primo numero di Alphaville, sono gli scrittori della nuova fantascienza, i cyberpunk, quelli dell'horror più violento, gli splatterpunk, poi vedremo che cosa significano questi nomi misteriosi, sono gli autori del nero americano, quelli del fumetto inglese, a raccontare meglio di tutti gli altri gli stili di vita di questa nuova era, a raccontare, insomma, meglio il mondo che ci sta intorno. Ogni epoca ha i suoi mostri e se la società vittoriana aveva creato Mr. Hyde, il doppio mostruoso del dottor Jekyll, è interessante allora andare a vedere quali sono i mostri della nostra società postmoderna. E questo l'intento con cui Alphaville è nata. Per ora è uscito solo questo primo numero, gli altri sono attesi a cadenza semestrale. Daniele Brolli e Antonio Caronia sono un po' l'anima della rivista, anche se parlare di anima in un contesto dove troviamo intelligenze artificiali e realtà virtuali, dove troviamo uomini in macchina e creature fantastiche, non è forse troppo indicato. Attorno a Daniele Brolli e ad Antonio Caronia c'è un comitato scientifico che allinea i nomi di Goffredo Fofi e Alberto Abruzzese, Paolo Fabbri, Omar Calabrese, Carlo Formenti, Carlo Paggetti e Mario Perniola. Alcuni di loro firmano i saggi di questo primo numero che ora andiamo a vedere da vicino. Abbiamo parlato poco fa di cyberpunk e di splatterpunk, di nero americano e di fumetto inglese. L'interesse di questo primo numero di Alphaville, un numero di fondazione in un certo senso, un numero che è anche un'enciclopedia, sta anche nel fatto che questi filoni della letteratura di genere ci vengono illustrati a uno. Antonio Caronia si occupa del cyberpunk, modernissimo filone della fantascienza. Il cyberpunk, la parola viene da cybernetic, che ha dato origine anche a cyborg, gli esseri per metà uomo e per metà computer, nasce negli anni Ottanta. Utopia e nuova sensibilità di fine millennio sono, appunto, secondo questo articolo di Antonio Caronia, gli ingredienti del cyberpunk. Dal cyberpunk vengono film come Blade Runner con i suoi replicanti, oppure Videodrome di Cronenberg, un cupo incubo in cui la televisione, sotto forma di videocassetta, entra letteralmente nella carne del protagonista. Da qui viene un romanzo come Mona Lisa Cyberpunk di William Gibson, uscito da Mondadori. Completano la sezione dedicata al cyberpunk una serie di interviste, una di queste è proprio a William Gibson. Chiusa la sezione dedicata al cyberpunk, si apre quella del nero e dell'horror. E qui facciamo conoscenza con lo splatterpunk, termine onomatopeico. Onomatopeico, splatter, vuol dire proprio spiaccicarsi, che indica l'ultima generazione degli scrittori dell'orrore. Cresciuta, leggiamo qui, nel rogo dei simboli e delle speranze degli anni 70. Splatter, dicevamo, è una sottocategoria dell'orrore, ma non l'orrore che prende la testa, né il terrore che può essere quello di una porta che si apre nel buio cigolando. Questo è proprio l'orrore che prende lo stomaco, quando leggiamo di teste spiaccicate e di corpi ridotti a polpette. Un orrore eccessivo? Forse sì. Però neanche le trasformazioni del dottor Jekyll erano proprio roba per ragazzine. Qui lo splatterpunk sta in buona compagnia con i serial killer, quelli che troviamo nei romanzi di Ahoy e di Thomas Harris. Quel Thomas Harris che ha dato vita alla figura inquietante di Hannibal Lecter, psichiatra e cannibale. A parlarci del nero e dell'horror è Daniele Brolli. Il suo intervento si intitola Malattia di stagione. E l'interesse di questo lavoro, di questo articolo, sta nel fatto che ci spiega con una certa chiarezza dove sta l'interesse di questi romanzi. Secondo Daniele Brolli, l'interesse di questi romanzi sta nel fatto che sono la metà oscura, o la faccia nascosta, se vogliamo, di quel culto del corpo che da qualche anno si è diffuso ovunque. Nella sezione dedicata al fumetto è invece di scena l'Olocausto. Troviamo qui un breve scritto di Goffredo Fofi su Art Spiegelman, il disegnatore americano che ha ripercorso la storia dei lager, ritraendo gli ebrei come topi e i nazisti come gatti. I suoi libri sono usciti da Rizzoli e hanno avuto uno straordinario successo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. E c'è stato perfino chi ha ritenuto questi fumetti degni di figurare accanto ai libri di Primo Levi. Un altro saggio, affirma Gino Frezza, esplora invece i fumetti di Dylan Dog, l'investigatore che ha un aiutante con il volto di Groucho Marx, un fumetto che piace agli intellettuali come ai ragazzini, e che sembra avere divelto le barriere, gli steccati tra cultura alta e cultura bassa. Completa questo primo numero di Alphaville una sezione con il titolo Bussola, che ospita un ragionamento sui romanzi di spionaggio, romanzi che con la caduta del muro di Berlino si sono trovati, in un certo senso, senza più terra sotto i piedi. E ospita anche questa ultima sezione del titolo Bussola un intervento di Antonio Faeti. Antonio Faeti è un pedagogista, insegna a Bologna, sulla categoria del patetico. Categoria che gli sceneggiati del tipo Mi sono divertito o Pianto tanto hanno fatto tornare d'attualità. Le ultime pagine ospitano una serie di brevi recensioni, che sono un panorama e insieme una guida alla lettura. Troviamo schede su una serie di libri tra quelli usciti di recente. Alphaville ha naturalmente il suo grande ispiratore in Umberto Eco, che già negli anni 60, con Apocalittici e Integrati, aveva applicato gli strumenti della scienza dei segni, gli strumenti della semiotica, alla letteratura popolare. Si è occupato di Superman, per esempio. Il seme gettato da Eco non ha avuto, per la verità, molto seguito, tranne qualche lodevole eccezione, e le lodevoli eccezioni si trovano qui riunite a scrivere su Alphaville qualche anno dopo. Ma basterebbe una sola, semplice constatazione per farci capire l'interesse di questi studi, che si occupano forse non dell'arte con la maiuscola, ma di forme espressive considerate minori. I gialli, o la fantascienza, sono cambiati molto più radicalmente e molto più rapidamente in questi ultimi anni rispetto ai romanzi tradizionali. se noi leggiamo un giallo come quelli di Agatha Christie e leggiamo un giallo uscito oggi, le differenze sono enormi. Se noi leggiamo un romanzo tradizionale uscito all'epoca in cui uscivano i primi libri di Agatha Christie e leggiamo invece un romanzo di oggi, le differenze non sono così grosse. Quindi i romanzi di genere, la letteratura di genere, non è affatto ripetitiva, non è affatto costruita su una formula collaudata una volta per tutte. Al contrario, è legata al nostro tempo e alla nostra vita. E proprio per questo, se li studiamo, se studiamo questi libri con attenzione, possono rivelarci qualcosa di noi.